Friuli nel mondo. 108ª trasmissione dedicata agli emigrati. Incontro di cori in Carnia. Sagra canora a Villa Santina. Sagra tipicamente carnica, nella quale la tradizione ha avuto la sua più genuina espressione di civiltà e di saldezza morale della nostra gente. Il susseguirsi in nobile gara di villotte antiche e recenti da parte di cori provenienti dalle vallate carniche e dalla bassa friulana, egregiamente presentate da Luciano Romano e seguite con appassionante interesse dalla folla presente, ha dato il segno più chiaro di quanto il Friuli senta il bisogno, in questi tempi di febbrile progresso, di ritemprarsi un po' nelle limpide e pure acque sorgive di un glorioso passato. Nelle poche villotte che trasmettiamo sono sintetizzate la bellezza e la serenità del nostro copioso patrimonio canoro. Osunait Ciampanis è una patetica villotta di Giuseppe Peresson, cantata dal coro di Arta e Sutrio, diretto dal maestro Don Tarcisio Buzzolini. Il coro Sot la Nape di Villa Santina esegue ora, diretto dal maestro Ernesto Dario, la villotta popolare Alciante il Gial. Mandi di ninne me, L'Ave Maria de Matine, eseguita dal coro della Saici di Torviscosa, sotto la guida del maestro Giuseppe Avian, è una delicata villotta di Persoglia. Di Arturo Zardini, eccovi ora la stupenda villotta La Gnotte d'Avril, cantata dal coro di Pontebba, diretto dal maestro Gino Piemonte. La gnotte sembrone chiaris che stelis chiare che lune oses ben bielis che firma me La Fari di Tolmezzo esegue la villotta dal titolo O tu stele, sotto l'abile guida del maestro Don Adriano Caneva. In quel dì dalis meis gnocis è una villotta popolare carnica eseguita dal coro di Forni Avoltri diretto dal maestro Mario Del Fabbro. In quel dì dalis meis gnocis, in quel dì dalis meis gnocis, oi c'è fiesta, oi c'è fiesta, oi c'è fiesta. Ed infine ascoltate questo Salute Forlanie di Arturo Zardini, che i cori di Tolmezzo, Pontebba, Torviscosa, Forni Avoltri, Arta, Sutrio e Villa Santina eseguono insieme sotto la direzione del maestro Gino Piemonte in onore del Friuli e a chiusura di questa toccante sagra della villotta. Altiva, romedito. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 108ª trasmissione a cura di Ermete Pellizzari. Ha suonato l'orchestrina popolare di Arta.